Io voglio un amico da salutare. Partire senza lasciare traccia è triste. Partire ha senso se lasci qualcosa, se soffri, ma per avere una prospettiva migliore o nuova. Se no, è solo spostarsi da un posto all'altro. Io sono qui. Io sono qui. Di Matteo Caccia. Sono le 16:07 di un giovedì 30 di giugno 2011. Questa è Radio 24. Io sono Matteo Caccia e sono qui. Due giorni. Mancano due giorni alla fine di questo programma. Vi ho raccontato tutto di me. Vi ho raccontato talmente tanto che ogni tanto mia mamma mi chiamava per chiedermi come mai certe cose le dicevo in diretta e lei non lo sapeva, e quindi doveva venirle a conoscenza ascoltando la radio. Un giorno però ho anche cercato di capire un po' chi eravate voi. Voi che siete all'ascolto in questo momento e che ci siete stati per questo anno o per gli ultimi mesi, se siete arrivati nell'ultimo periodo. E devo dire che dai racconti che ho raccolto dalle telefonate, dai messaggi o dai commenti che arrivavano sul profilo Facebook di questo programma, una sorta di profilo molto generico, ovviamente, di voi che ascoltate questo programma un po' ce l'ho, anche grazie alla serata di giovedì scorso, di una settimana fa. Oggi però io vorrei andare un pochettino più a fondo. Ho perfezionato il questionario che avevo usato al Salone del Libro. Chi c'era se lo ricorda, chi non c'era magari l'ha sentito. Ecco, e oggi ho voglia di sottoporvelo, in diretta. Sono 10 domande. Se voi volete rispondere a queste 10 domande, cominciate a fare il numero 800240024 oppure tramite messaggio 349-238-6666. Il questionario è questo qui. 1. Qual è il tuo primo ricordo? 2. Qual è stata la volta in cui hai avuto paura? 3. Qual era il tuo sogno di bambino? 4. La volta in cui sei stato veramente felice? 5. Dove vai in vacanza? 6. Una cosa che ti piace? 7. Una cosa che ti fa schifo? 8. Il posto in cui ti senti a casa? 9. Cosa vedi di fronte a te in questo momento preciso? 10. Una canzone. E visto che è un patto e come tutti i patti vanno rispettati da entrambe le parti, io adesso rispondo a queste 10 domande. Se voi avete voglia di rispondere, chiamate anche voi per sapere dove siete voi, mentre io sono qui. Numero 1. Il mio primo ricordo è mio nonno che mi porta sulla sella del ciao senza il casco. Numero 2. La volta in cui ho avuto più paura nella mia vita è stato su un gommone in mezzo al mare senza la benzina. Numero 3. Il mio sogno da bambino era diventare grande. Numero 4. Sono stato veramente felice il 22 di maggio dello scorso anno. Numero 5. In vacanza di solito vado sull'isola di Caprera. Numero 6. La cosa che mi piace di più è la coppa piacentina. Numero 7. La cosa che mi fa schifo di più sono i serpenti. Numero 8. Mi sento a casa quando sono in mezzo alle risaie. Numero 9. Davanti a me, in questo momento, dietro al vetro, vedo Paolino Corleoni, Viola Bottoni, Tiziano Bonini e Stefano D'Andrea. Numero 10. Una canzone. Una canzone su tutte è The First Day of My Life, dei Bright Eyes. This is the first day of my life. Swear I was born right in the doorway. I went out in the rain, suddenly everything changed. They're spreading blankets on the beach. Questo questionario farà parte del programma che partirà il prossimo anno. Per prossimo anno intendo la prossima stagione. Sarà solo una piccola parte di quel programma che comincia un pochettino anche da oggi, che comincia da qui. 80024 0024 per chiamare in diretta e rispondere a queste domande. Poi vediamo se le facciamo tutte 10 o ne prendiamo qualcuna un po' così a caso. Oppure 349-238-6666. C'è una comunicazione di servizio da fare per tutti quelli che usano Facebook, ma anche per tutti quelli che usano semplicemente internet. E in particolar modo per quelli che giovedì scorso non erano presenti alla serata. Primo fra tutti Stefano D'Andrea, che ha deciso di non esserci perché aveva altri impegni e, recriminando non poco, è venuto finalmente oggi, è tornato a Milano ed è qua in radio insieme a noi. Allora, la notizia è questa qua, che Paolo Corleoni ha preso il video ufficiale di quella serata, girato con una telecamera, giusto Paolo? Una telecamera che era messa... Quelle fisse della sala collina di Radio 24. È stata ripresa tutta la serata, che però è partita dopo, giusto? Ecco. Niente, manca il primo minuto, perché noi quando facciamo le cose piace farle bene, le cose. Quindi il primo minuto non c'è, ma tanto il primo minuto no, è per colpa del nastro. Il primo minuto tanto era semplicemente la sigla e alcune cose che dicevo, che poi dico sempre le stesse cose, quindi anche se salta il primo minuto non è un thriller, non succede niente. Paolo le ha prese e le ha divise in nove tranche e sono state tutte caricate su YouTube, sul profilo Facebook del programma, che è Matteo Caccia, io sono qui, trovate il link alla prima. E da lì risalite a tutte le altre 8. Vi ricordo, il profilo è Matteo Caccia, io sono qui. Ma se andate su YouTube cercate Io sono qui live, giusto Paolo? Le hai taggate come Io sono qui live, Matteo Caccia, io sono qui, e forse anche live per chi non c'era o perché semplicemente vuole rivederselo. È passata una settimana, tutti ancora ce lo ricordiamo, e ancora grazie per essere venuti. Vi leggo alcune delle risposte che sono arrivate. Magari si rallenta un po' anche, perché forse essendo la penultima puntata ho la sensazione di dover dire più cose di quanto in realtà ne debba dire. Allora, quando è che abbiamo cominciato? Il 4 di settembre? O il 5? L'8? Viola, che giorno era il lunedì 4? Viola non c'era ancora! Tu pensa, c'era, non era ancora nata, c'era la fu Vittoria Mussini, che salutiamo, è passata a miglior vita. Viola Vittoria Mussini è passata... è da un'altra parte. No, a miglior vita, nel senso che sarà da un'altra parte. L'abbiamo vista, sta bene, vive, lavora e spera di voi. E in questo modo siamo passati da Vittoria Mussini a Viola Bottoni. Le risposte, Marilena. Il primo ricordo, in viaggio verso Genova, è il trasloco di mia zia. 2. La volta in cui ho avuto paura, forse la guerra è in Libia, la mia famiglia vive in Sicilia. Non l'ho capita questa. Ah, perché aveva paura che bombardassero. Ho capito. Numero 3. Il tuo sogno da bambino, sposarmi a 26 anni e avere un figlio a 28. Ne ho 30 e non ho nessuna delle due. Numero 4. La volta in cui sei stata veramente felice. Ricordo la sensazione, ma non ricordo l'evento. Dove vai in vacanza? Sicilia e Malta. Una cosa che ti piace, l'aria fresca del mattino. Una cosa che ti fa schifo, l'ipocrisia delle persone. Il posto in cui ti senti a casa. Il parco vicino a casa mia. Cosa vedi davanti a te in questo momento? Il monitor, i capi e la finestra. Un po' come me, più o meno. Numero 10. Una canzone, Wake Up When September Ends dei Green Day. 800240024. Oggi si fa un bel questionario, oppure 349 238 6666, ma soprattutto oggi andiamo verso la chiusura di questa storia. Milano mi sembra il set di uno di quei film catastrofici che la gente fugge dalla città perché è arrivato il tornado o il terremoto o i marziani. E rimango solo io. Passeggio per le strade guardando la gente che si prepara mentalmente ad andare via, con quei sorrisi sulla faccia che sanno di speranza di un futuro migliore, anche se quel futuro durerà qualche settimana. Perché alla fine la vita è una questione di aspettative. Se pensi che domani ci sarà qualcosa di bello per te, gli effetti positivi li senti fin da oggi. È per quello che esistono le pratiche filosofiche del genere pensa positivo. Perché se tu ti convinci che domani arriverà qualcosa di magnifico, sicuro che starai bene fin da adesso. E poi domani chi se ne frega, anche se non arriverà granché. E non c'è fregatura, perché il nostro cervello è un po' stupido. E allora, se anche il giorno dopo non succede niente di eccezionale, rimarrà l'idea che tutto sommato fare quello sforzo di immaginazione non è stato male. Insomma, la gente che si proietta al mare o in viaggio è felice molto di più di quando sulla spiaggia, in mezzo alla calca o sotto il sole battente ci sarà veramente. Insomma, è un po' il sabato del villaggio. Tornando a casa dalla mia passeggiata ieri mattina, ho incontrato il giornalaio, quello di fronte a casa, mentre si stava appena riprendendo da una specie di dopo sbronza che mi fa essere felice di essere a Stemio. Gli ho detto che ero contento che lui ci fosse, almeno che fosse Milano, perché questa città si svuota, insomma, mi mette un po' di tristezza. Lui mi dice di fermarmi perché deve vomitare. Si abbassa dietro ai giornali e fa dei versi strani, poi riappare un po' più segnato in viso ma meno sofferente. Beve un bicchiere d'acqua e mi dice che lui parte domani. Va nella casa di montagna dei suoi, che non la usano più, e lui ci andrà per capire un po' meglio cosa vuole dalla vita. Dice che lo ha deciso stanotte. Il giornalaio è un mestiere difficile se non è un sostituto. E io gli ho detto vabbè, grazie, sei una sicurezza. E in realtà dovrei essere contento per lui, ma mi sento ancora più solo. Gli chiedo se vuole un Alka-Seltzer, lui mi dice che ne ha già presi due. E allora salgo in casa e mi chiudo in stanza. E non capisco com'è che siano già partiti tutti. Non è agosto, E va bene che sì, adesso le vacanze sono flessibili, tipo la Germania, però così esagerato, no? O forse sono solo io che mi accorgo di più di quelli che se ne vanno e meno di quelli che restano. Si nota di più chi evade dalla routine piuttosto che chi ci rimane. Allora mi placo un po' e penso che ci sono un sacco di amici che rimangono in città. Gente da salutare, a cui raccontare le cose mie, Nathalie, Tbilisi. Scendo per andare a fare una seconda colazione, perché il doppio cappuccino e brioche è una buona abitudine che riservo per i giorni più duri. E mi accorgo che in portineria c'è un signore extracomunitario. Gli chiedo chi è. Lui mi dice che sostituisce la portinaia che è andata via. È cingalese. Ecco, è stato lì. È stato guardando quel signore dello Sri Lanka venuto da chissà quale villaggio o città dell'Oriente che l'ho capito. Guardando lui che stava seduto al posto della signora Ludovica, ho capito che dovevo partire. Per andare dove ancora non lo sapevo, ma la cosa più importante era che dovevo andare via da qui. Un'idea del posto ce l'avevo, però era più che altro una sagoma sfocata. Sì, dovevo fare una valigia, chiudere la casa, uscire dalla città e respirare un'altra aria. Insomma, in poche parole, dovevo partire. Leave me alone. Voglio un amico da salutare. Perché partire senza lasciare traccia è triste. Partire ha senso se lasci qualcosa. Se soffri, ma per avere una prospettiva migliore o nuova, se no, è solo spostarsi da un posto all'altro. E la famiglia non conta. Ormai sono diventato grande. E allora faccio una cosa: prendo la rubrica del telefono, che è già la seconda volta che la scorro in poche ore, e cerco dei nomi, come dei suggerimenti. Cerco degli amici. E per fortuna ne trovo. È solo che non a tutti va di fare una chiamata. Però qualcuno sì, mi va. E non mi rispondono mai. Servizi di segreteria telefonica. Eccolo qua. Dopo il segnale acustico, registra il tuo messaggio. Poi provo con quelli che sono sicuro che non ti rispondono perché hanno sempre qualcosa di più importante da fare. Però magari lascio un messaggio. Allora provo a chiamare Bordone, ad esempio. Bonini, il Genovesi. Servizi di segreteria telefonica. Dopo il segnale acustico, registra il tuo messaggio. Una volta ho letto che ci si sposa per avere la forza e un complice per andarsene via dai propri genitori. È una cosa vera, però si comincia a farlo più da piccoli, quando si fa amicizia con gente simile a te e diversa dai grandi, e si decide che si sta meglio con loro che con gli altri. I miei amici non me li sono scelti con grande attenzione. Semplicemente me li sono trovati a scuola, a lezione di tennis, ai giardini. Non me li sono andati a selezionare in giro per il mondo. Però con loro ho condiviso tante cose e sono rimasti miei amici. Poi ci sono quelli di Milano, quelli di quando sono cresciuto. Quelli sì, li ho scelti. E tutti hanno fatto la loro parte, mi hanno mostrato quello che da solo non avrei visto. Un affetto da alimentare ogni giorno, una stima per come sei. Mi hanno insegnato che al mondo nulla ti è dovuto, non è come quando mamma e papà ti amano solo per il fatto che esisti. Ho imparato che se non le dai da mangiare, anche l'amicizia rischia di diventare magra, ma che non muore e ti fa crescere. È un antico dilemma, meglio l'amicizia o l'amore, tipo il dolce o il salato? E io rispondo sempre, tutte e due. E mentre sono lì, che scorro l'agenda sul telefono, lui squilla. È Aldo. Pronto? Come va? Ehi, ciao Aldo, come stai? Io bene, tu come stai? È una merda. Ancora? Ma cos'è successo? Mi hanno mollato i miei amici, mi hanno mollato tutto. Mi spiace, ma che fine hanno fatto? Non lo so che fine hanno fatto, che è proprio l'amicizia, Matteo, è una merda. Ma dai, ma non è vero, io ad esempio... Cioè, no, alla fine... ma non sto parlando di te, chiaro, dico quelli che quando sei ragazzino che si sta sempre insieme, poi invece appena ti giri ti accoltellano. Sì, vabbè, ma dai, ma che c'entra? Ma, si cambia col tempo, no? Sì, si cambia. Si cambia e si diventa tutti delle merde. Sì, va bene. Senti, Aldo, scusa una cosa, ma tu non parti? Dove vado, Matteo? inutile, già tanto che c'è soldi per stare in questo residence a Rozzano. A volte quando prendo la macchina e ci torno, no? Qua a Rozzano, siccome il viaggio è lungo, penso di andare in vacanza. A Rozzano. Vabbè, dai, Rozzano non è così male, no, Aldo? Guarda, dai, senti, senti una cosa. Io ho deciso che parto, me ne vado per qualche mese. Perché non vieni a stare a casa mia? Tanto, boh, la casa la conosci. Dai pure da bere alle piante. Ma che non ti pago, eh? Dai, non ce n'è bisogno. Mi fa piacere, giuro. Ok? Allora, dai, vieni qua, così almeno saluto qualcuno. Va bene, grazie Matteo. Dai, dai, ci vediamo stasera. Molla al residence e vieni. Poi ciao. Quando torno vediamo. Ciao Aldo. Grazie, ciao. Ciao, ciao. Sono passati 5 anni e credi, perché ha tanta sete, sono molti. Ti ho già detto il mio nome, non ti ricordi di me, ordina ancora da bere e fammi ridere. Ti ho già detto il mio nome, non ti ricordi di me, ordina ancora da bere e fammi ridere. Ecco perché mi piacciono questi ascoltatori, perché io chiedo una cosa molto semplice, è un questionario fatto di 10 domande e arrivano messaggi come questo. Quando ero piccolo mi chiudevo in camera e prendevo il mappamondo di quelli che si accendevano, spegnevo la luce e giravo il mondo sotto le coperte. Simone da Prato. Grazie Simone. Però, diciamo, con questo questionario composto di 10 domande che ti ripeto... Qual è il tuo primo ricordo? Qual è stata la volta in cui hai avuto paura? Qual era il tuo sogno di bambino? La volta in cui sei stato veramente felice? Dove vai in vacanza? Una cosa che ti piace? Una cosa che ti fa schifo? Il posto in cui ti senti a casa? Cosa vedi davanti a te in questo momento? Una canzone. Ora, Simone da Prato, questo tuo messaggio, con questo questionario, più o meno, non esattamente, ma... che cosa c'entra? E poi due messaggi insieme. Matteo si dice non comunitario, extracomunitario, da 2 settimane offensivo per legge. Ascolta i GR di Radio 24. Non è che però ci abbiamo tutto il tempo di ascoltare proprio tutta la radio. Un non comunitario che ti ascolta tutti i giorni. Poi ancora, come suona male la parola extracomunitario. Allora, ho detto extracomunitario, probabilmente sì, ma non era ideologico. Ok? E dicendo così siamo a posto. Non era ideologico. Matteo, finito il tuo programma, cosa ci sarà? Finito il mio programma, ci sarà. Comincia lunedì un programma che si chiama La Bella Estate ed è condotto da Tommaso Labranca insieme a Fabrizio Intonti. Cioè, non è condotto da Fabrizio Intonti. No, non mi pare. No, Fabrizio Intonti è autore insieme. Niente, allora, però quando devo lanciare una cosa? Viola, ti ho chiesto, scrivimela. Giusta, altrimenti facciamo. Allora, tra l'altro, domani abbiamo al telefono Tommaso Labranca, giusto? Domani non lo sa. Ormai queste ultime puntate proprio allo svacco, veramente. 80024 0024, facciamo in tempo a prendere una telefonata? Sì, ce la facciamo. Andiamo dalla provincia di Milano da Mariangela. Pronto Mariangela? Sì, ciao, ciao Matteo. Intanto grazie per la tua compagnia dolcissima. Grazie mille Mariangela. Ma sei italiana? Allora. Certo che sono italiana. Ah, scusami, perché ho sentito uno strascichio strano nella... Ho un po' la R. Ah, scusami, è semplicemente una forma di aristocrazia no, moderna. Italianissima. Che cosa fai di lavoro, Mariangela? Sono impiegata, segretaria. Ma sei al lavoro in questo momento? Sì. Ah, e sei al lavoro e puoi telefonare serenamente? Sì. Brava, ok, mi è piaciuto il tuo sì deciso. Senti, sentiamo un po' queste domande, sentiamo le tue risposte. Ci sei? Sì. Te le leggo e tu mi rispondi. Sì. Qual è il tuo primo ricordo, Mariangela? Anche per me è mio nonno. Mio nonno su un divano a 3 anni, giocavo con lui. Lui faceva finta debolissimo perché dopo mi sono reso conto che stava per morire. Infatti è morto il giorno dopo. Quel ricordo è con lui che faceva finta di fare la lotta con me, che vedevo nel suo sorriso che mi amava. Ti faccio salto un pochettino di domande perché altrimenti non ce la facciamo. La volta in cui sei stata veramente felice, Mariangela? Nuotando con dei delfini e accarezzandoli. Una cosa che ti piace? Una cosa che mi piace è lo spezzatino che fa la mia amica Luisa. Una cosa che ti fa schifo invece? Che mi fa schifo sono i ragni pelosi, li detesto. Che cosa vedi davanti a te in questo momento? In questo momento vedo il mio PC e una riproduzione di un quadro di Miro. Mariangela, grazie mille. Figurati. Buona giornata. Un bacio. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Nella foto di oggi siamo all'interno dello stadio di San Siro. Non è però uno stadio allestito per una partita di calcio, come dovrebbe sempre essere. È lo stadio allestito per un concerto. Allora, credo sia uno degli ultimi concerti di Vasco Rossi, visto che ha fatto praticamente 2 settimane di concerti che si sentivano fin da qui, dalla sede di Radio 24. C'è un mega palco allestito. La cosa però che mi sconvolge di più è che il sole è altissimo. Cioè, è illuminata come se fosse pomeriggio. Dalla luce che c'è potrebbero essere le 5 del pomeriggio. E c'è già sul parterre, sull'erba, un sacco di gente. Luca Cattaneo, ho 44 anni. La foto che ho mandato è stata scattata il 21 giugno alle ore 17:10 del primo anello blu all'interno dello stadio di San Siro. Sulla destra c'è il palco dove canterà il grande Vasco. In fronte, sul prato, le prime persone arrivate. E io sono qui. 44 anni, anello blu, concerto di Vasco. Siamo al questionario per oggi, sono 10 domande a cui ha risposto ad esempio anche Lucia. Ve le leggo perché quelle di Lucia sono divertenti. Qual è stato il tuo primo ricordo? Io che infilo le dita nella coppia di champagne di mio nonno per assaggiarlo. Qual è stata la volta in cui hai avuto paura? Quando mi è arrivata la versione di Greco di Plutarco accartocciata e la prof era dietro di me. Qual era il tuo sogno da bambino? Diventare una prima ballerina. Adesso sono una cintura nera di judo. 4. La volta in cui sei stata veramente felice, la volta in cui non me l'aspettavo. Dove vai in vacanza? In Grecia, se Giada e Riccardo si convincono e la smettono di associarla a Muccino e alla sua S. Una cosa che ti piace? La samosa. Cos'è la samosa? O samosa? Viola, grazie. Una cosa che ti fa schifo? Il wasabi. Il posto in cui ti senti a casa? La biblioteca della statale. Cosa che vedi davanti a te in questo momento? La tesi appena stampata, un costume e lo smalto mattone. 10. Una canzone, Thank You dei Led Zeppelin. 800240024. Ne abbiamo di telefonate e non credo che riuscirò a chiedere tutte le domande, però andiamo subito da Salvatore di Bergamo. Pronto Salvatore? Ciao Matteo. Ciao, come stai? Tanti complimenti per la trasmissione. Grazie mille. Che cosa fai a Bergamo, Salvatore? L'autista, sto andando su e giù, vado. Ma l'autista d'autobus? No, di camion, sono di Prato. Ah, sei di Prato, quindi fai avanti e indietro. A Prato. E cosa trasporti? Roba alimentare, roba fresca, generi freschi. Tipo? Tipo prosciutti, mortadelle, salumi. Ma tutti i giorni lo fai? Tutti i giorni. Tutti i giorni. Sì, senti, addirittura facevo l'estero. Ah, ok. Scusami, quanti chilometri sono Prato-Bergamo? Oddio, aspetta, è 400 e passa. Senti, andiamo un po' di domande, va, così ci conosciamo meglio, Salvatore. Vai. Qual è il tuo primo ricordo? Mentre faccio sgambetto a mio fratello piccolino, che era nato da poco. La volta in cui hai avuto veramente paura? Quando mi hanno avvelenato il cane. Che non c'è più? No, c'è, fortunatamente. Ah, ok. Con il dottore, sono stato svegliato a casa. Il tuo sogno di bambino qual è? Volevo diventare un pilota. E vabbè, più o meno comunque conduttore. Certo. La volta in cui sei stato veramente felice, Salvatore? Ah, quando con cavillo legale sono riuscito a non pagare una multa. Dove vai in vacanza? Ad Amalfi. Una cosa che ti piace? L'astice. Una cosa che ti fa schifo, invece? La politica. Il posto in cui ti senti a casa? Il tuo cane? In tutto il mondo. Cosa vedi davanti a te in questo momento preciso? La strada. Una canzone? Gli angeli di Vasco Rossi. Salvatore, ti ringrazio moltissimo e buon viaggio. Matteo, ciao, grazie. Ciao. Paolo, dalla provincia di Roma. Pronto? Ciao Paolo. Ciao Matteo. Senti, andiamo subito con le domande, così andiamo al cuore. Il tuo primo ricordo? Quando ero all'asilo e giocavo con i miei amici dall'asilo. La volta in cui hai avuto paura? Diverse volte, durante il lavoro che faccio, mi sono trovato in situazioni un pochettino. Che lavoro fai? Sono ufficiale della Marina Militare. In mezzo al mare con la nave, in alcune situazioni erano poco simpatiche. Qual era il tuo sogno di bambino? Fare musicista. La volta in cui sei stato davvero felice, Paolo? Quando è nato mio figlio, il primo. Vai in vacanza dove? Quest'anno no. Diciamo che quando sono andato torno a Marina di Carrara, da dove sono cresciuto, insomma. Una cosa che ti piace o una che ti fa schifo? Mi piace la carne. Mi fa schifo la disonestà e la maleducazione. Il posto in cui ti senti a casa? Dovunque. Che cosa hai davanti a te in questo momento, Paolo? Sono in un parcheggio dove c'è un sacco di verde, prati, piante e quanto. Ma dove esattamente? Dove ti trovi? Sono nella provincia di Roma, sono verso Viterbese. Dimmi una canzone, Paolo. Una canzone, Pink Floyd, Money. Paolo, ti ringrazio molto. In bocca al lupo per Matteo, tutto. Grazie. Ciao, grazie. Ciao. Andiamo a Verona da Matteo. Pronto, Matteo? Ciao, Matteo. Ciao, sei in macchina? Sì. Hai l'auricolare? Certo. Molto bene. Qual è il tuo primo ricordo? Una ragazza che parla alla televisione con una giacca marrone, che poi ho scoperto era essere davanti al muro di Berlino che crollava. Qual è stata la volta in cui hai avuto paura? Il giorno che mio padre ha avuto un infarto. Il tuo sogno di bambino? Fare giornalista. E cosa fai adesso? Faccio l'agente di commercio. La volta in cui sei stato veramente felice? Il giorno che Susanna, la mia ragazza, mi ha detto che mi voleva sposare. E in vacanza dove vai? A casa. Una cosa che ti piace e una che ti fa schifo? La cosa che mi piace è la carbonara di mia madre. Quello che mi fa schifo, dovrei dirti, Berlusconi. E l'hai detto. Il posto in cui ti senti a casa? Casa mia. Cosa vedi davanti a te in questo momento? Un camion che non va avanti nemmeno se lo spingi. Una canzone? First day of my life, Bright Eyes. E siamo lì. Matteo, grazie mille. Buona giornata, in bocca al lupo. Andiamo a Bergamo da Stefania. Pronto, Stefania? Ciao. Ciao, come stai? Bene. Stai camminando? No, sto andando in bici. Ma quanti anni hai, Stefania? 39. Ah, scusami, perché sembravi una bambina di 12. Lo so, me lo dicono sempre. Lo so, è un po' il tuo bello. Qual è il tuo primo ricordo, Stefania? Mio nonno col pigiama sporco di sangue. La volta in cui hai avuto paura? A un rifugio in cima sui monti di Bergamo. Il tuo sogno di bambina? Scrivere. Cosa fai adesso? Faccio l'impiegata. La volta in cui sei stata veramente felice, Stefania? Quando ho partorito i miei due figli. Insieme? No! Ah, ok. Dove vai in vacanza? In Sicilia. Una cosa che ti piace? La pizza! Una che ti fa schifo? I vermi. Il posto in cui ti senti a casa? In camera mia. Che cosa vedi davanti a te? Un campo di grano turco tutto verde. E un cane anche, direi. Dimmi una canzone, Stefania. Equilibrio instabile degli Stadio. Buona pedalata, ciao, grazie Stefania. Grazie, ciao. Ciao, che cos'è Equilibrio instabile degli Stadio? Gli Stadio sono il secondo gruppo dopo i Nomadi, attenzione. No, fermiamoci. Andiamo da Marina, da Cuneo. Pronto Marina? Ciao. Ciao, mi sa che sei l'ultima. Scusa, intanto sentiamo Marina. Marina, perdonami perché mi stanno facendo sentire Equilibrio instabile degli Stadio. E a posto, ho capito di cosa stiamo parlando, grazie Paolino. Marina, veniamo a te, dove ti trovi? Allora, io sono a Cuneo, sono a casa. Brava, andiamo con le domande. Il tuo primo ricordo? Allora, è mio nonno che mi comprava il corrierino dei piccoli, così ho imparato a leggere 3 anni. La volta in cui hai avuto paura? L'esame di maturità. Il tuo sogno di bimba? Ah, è stranissimo, diventare la progettista delle macchine che avrebbe guidato Jim Clark, campione di Formula 1. Che cosa hai fatto o che cosa fai adesso? E ho studiato ingegneria meccanica, ma adesso faccio l'agente di commercio. Dove vai in vacanza? sto qui nel mio orto con i miei gattini. Il posto in cui ti senti a casa? Atene. Cosa ti piace e cosa ti fa schifo? Allora, mi piace cucinare greco e niente, mi fa schifo. Dimmi cosa vedi davanti a te in questo momento. 5 dei miei gatti e il mio cagnolino. Una canzone? La canzone è Try Not To Get Worried da Jesus Christ Superstar. Marina, perché quello ti dà una forza quando sei. E io ti ringrazio invece, buona giornata. Grazie a te, buona estate. Ciao, anche a te, ciao. Andiamo a... Ah no, non ce la facciamo l'ultimo. Va bene, un'ultima. Andrea, ci sei Andrea? No. Ciao, senti, guarda, volevano non passarti in diretta, però non è possibile. Ti faccio 2 domande e poi ti saluto. Le 2 domande sono: qual è il tuo primo ricordo? A pescare era mio babbo. E che cosa vedi davanti a te in questo momento? Un bosco e tanti fiori. Temevo, un bosco che si avvicina. Chi sei? Macbeth. Andrea, grazie mille, buona giornata. Ciao, grazie. Abbiamo finito, abbiamo addirittura citato Macbeth, che non lo sapevo, me l'ha consigliato Alessandro Marco Tulli, ovviamente, che è l'esperto. Chiudiamo in un modo con cui cominceremo probabilmente l'anno prossimo. 2007, il 3 settembre, primo giorno di vacanza sull'Appennino tosco-emiliano, in provincia di Parma, dove i miei genitori hanno una specie di agriturismo. La giornata era splendida e io, come al solito, con i miei 2 bambini mi preparavo ad andare a pescare al fiume. Da quando sono bambino, gli anziani mi hanno insegnato a pescare con le mani, braccio in grotta a cercare il pesce, chiudi la fuga e lo prendi per le branchie. Sì, lo so, non è molto legale, ma cosa c'è di più difficile di prendere un pesce viscido tra le mani? Anni di pesca, trote fario anche di 1,5 kg, ma il 3 settembre del 2007 avrebbe segnato la mia vita. Grazie a Viola Bottoni che mi dice che la samosa è un popolare antipasto e snack indiano diffuso in tutta l'Asia centrale. Ma grazie anche a Stefano D'Andrea che scrive con me questo programma, a Tiziano Bonini che lo pensa e lo fa tutti i giorni, grazie a Paolino Corleoni che è un po' il nostro tecnico e un po' no, nel senso che lo sono anche gli altri. Grazie a tutti quelli che hanno ascoltato. Domani è l'ultima puntata di questo programma che è cominciato 10 mesi fa, finisce domani. Domani un po' già lo so dove sarò, ma oggi io sono qui. E voi dove siete?